artisti che vi danno un piacere, non vi fanno perdere soldi. Una grande sensazione. Telespettatore, telespettatore, l'opera d'arte. Artisti, soldi, i telespettatori si possono anche acquistare. Artisti che vi danno un piacere, non vi fanno perdere soldi. Ma voi che non volete soltanto un'opera perché l'investimento rende, perché i soldi non si possono perdere, ma voi che volete un'opera che vi piaccia, un'opera che volete tenere a casa, un'opera che volete guardare tutti i giorni e ovviamente al contempo un'opera che non perda valore. Ma vi posso garantire che gli artisti che vedrete, oltre che essere artisti che vi danno un piacere, che vi danno una grande sensazione nel guardarli tutti i giorni, sono anche artisti che non vi fanno perdere soldi. Soldi. Non vi fanno perdere soldi. E soldi. E soldi. Gli artisti che vi danno un piacere sono un investimento. Non vi fanno perdere soldi. Una grande sensazione perdere soldi.